Il treno entrava nella stazione di Parigi e ancora, con mia madre, stavamo parlando di quelle due notizie che lei, perché il tragitto non mi sembrasse troppo lungo, avrebbe voluto riservare per la seconda parte del viaggio e di cui m'aveva messo al corrente solo dopo Milano. Mia madre era tornata ben presto al punto di vista che per lei era davvero l'unico, quello della nonna. Dapprima s'era detta che la nonna si sarebbe stupita, poi che si sarebbe rattristata, il che era semplicemente un modo per dire che la nonna avrebbe avuto piacere d'un avvenimento tanto stupefacente e che la mamma, non potendo ammettere che la nonna fosse stata privata d'un piacere, preferiva pensare che fosse meglio così, già che la notizia era di quelle che non avrebbero potuto non darle pena. Ma eravamo appena rincasati che già mia madre giudicava ancora troppo egoistico quel rimpianto di non poter rendere partecipe la nonna di tutte le sorprese recate dalla vita. Ritenne ancora meglio supporre che esse non sarebbero state tali per la nonna, di cui non facevano che ratificare le previsioni. Volle vedervi la conferma delle virtù divinatorie della nonna, la prova che la nonna era stata uno spirito ancora più profondo, più chiaro veggente, più giusto di quanto non avessimo pensato. Così, per giungere a questo punto di vista di ammirazione pura, la mamma non tardò ad aggiungere: «Eppure chi può dire se la tua povera nonna non avrebbe approvato? Era così indulgente». E poi, sai, per lei la condizione sociale non era nulla. Quel che contava era la distinzione naturale. E pensa che strano, le erano piaciuti tutti e due. Ti ricordi di quella prima visita a Madame de Villeparisis, quando era tornata e ci aveva detto come avesse trovato ordinario il signor di Guermont, quanti elogi in compenso per quei Jupiot? Povera mamma, del padre, ricordi, diceva, se avessi un'altra figlia gliela darei, e sua figlia è ancora meglio di lui. E la piccola Swan diceva, vi dico che è incantevole, vedrete che farà un bel matrimonio. Se potesse vedere, povera mamma, come ha indovinato. Fino alla fine, anche adesso che non c'è più, ci darà lezioni di lungimiranza, di bontà, di giusto apprezzamento delle cose. E poiché le gioie di cui ci rattristava veder privata la nonna erano tutte le umili gioie della vita, un'intonazione d'attore che l'avrebbe divertita, un piatto che le piaceva, il nuovo romanzo d'un autore amato, la mamma diceva come si sarebbe sorpresa, come l'avrebbe divertita, con che bella lettera avrebbe risposto. E continuava la mamma, quel povero Swan che desiderava tanto che Gilberte fosse ricevuta dai Guermont, non credi che sarebbe felice se potesse vedere sua figlia diventare una Guermont sotto un nome diverso dal suo? Condotta all'altare come Mademoiselle de Forcheville, credi che ne sarebbe tanto felice? Ah, è vero, non ci pensavo. Ecco cosa mi impedisce di rallegrarmi per quella carognetta. Il pensiero che abbia avuto cuore di lasciare il nome di suo padre, che era così buono con lei. Sì, hai ragione. Tutto sommato è forse meglio che lei non l'abbia saputo. Tanto per i morti come per i vivi, è impossibile sapere se una certa cosa darebbe loro più gioia o più dolore. Pare che i Saint-Loup vivranno a Tansonville. Il vecchio Swan, che desiderava tanto far vedere il suo stagno al tuo povero nonno, avrebbe mai potuto immaginare, soprattutto se avesse saputo del matrimonio infamante del figlio, che a vederlo spesso sarebbe stato il duca di Guermont. E infine tu, che gli hai tanto parlato degli spini rosa, dei lilla e delle iris di Tansonville, Saint-Loup ti capirà meglio e sarà lui a possederli. Si svolgeva così nella nostra sala da pranzo, sotto la luce della lampada di cui sono amiche, una di quelle conversazioni in cui la saggezza non delle nazioni, ma delle famiglie, impadronendosi di qualche avvenimento, morte, fidanzamento, eredità, rovina, e mettendolo sotto la lente d'ingrandimento della memoria, gli dà tutto il suo rilievo, dissocia, arretra e mette in prospettiva a diversi punti dello spazio e del tempo ciò che per chi non ha vissuto sembra amalgamato su un'unica superficie, i nomi dei defunti, gli indirizzi successivi, le origini d'un patrimonio e le sue modifiche, i cambiamenti di proprietà. Non è forse ispirata questa saggezza dalla musa che conviene evitare il più a lungo possibile se si vuol mantenere qualche freschezza d'impressione e qualche virtù creatrice ma che gli stessi che l'hanno ignorata incontrano la sera della loro vita lungo la navata della vecchia chiesa provinciale, quando all'improvviso si scoprono meno sensibili all'eterna bellezza espressa dalle sculture dell'altare che non alla conoscenza delle varie fortune che subirono passando da un'illustre collezione privata in una cappella, poi in un museo, poi di nuovo nella chiesa, o a sentire che stanno calpestando un pavimento dotato quasi di pensiero, fatto dell'ultima polvere di Arnaud o di Pascal, o semplicemente a decifrare sulla targa di rame dell'inginocchiatoio di legno, immaginando forse il viso d'una fresca provinciale, i nomi delle figlie del signorotto o del notabile, dalla musa che ha raccolto tutto ciò che le muse più alte della filosofia e dell'arte hanno rifiutato, tutto ciò che non è fondato in verità, tutto ciò che è puramente contingente ma rivela anche altre leggi, la storia. Certe vecchie amiche di mia madre, più o meno di Combray, vennero a trovarla per parlarle del matrimonio di Gilberte, da cui non erano affatto impressionate. «Sapete chi è Mademoiselle de Forcheville? È semplicemente Mademoiselle Swann. È il testimone del suo matrimonio, il barone di Charlieu. Come si fa a chiamare? È quel vecchio che una volta manteneva sua madre col beneplacito di Swann, che ci trovava il suo interesse». «Ma cosa dite?» protestava mia madre. «Tanto per cominciare, Swann era ricchissimo. C'è da credere che non lo fosse poi tanto, visto che aveva bisogno del denaro degli altri. Ma cosa avrà quella donna per tenere così i suoi ex amanti? Ha trovato il modo di farsi sposare dal primo, poi dal terzo, e tira fuori a metà dalla tomba il secondo perché faccia da testimone alla figlia avuta dal primo oppure da un altro. Come si fa a raccapezzarsi in mezzo a tanti? Non lo sa più neanche lei. Io dico il terzo». Ma dovrei dire il trecentesimo. Del resto sapete bene che se lei non è Forcheville più di voi o di me, fa giusto il paio col marito, che naturalmente non è nobile. Potete ben pensare che solo un avventuriero può sposarla, quella ragazza. Sembra che sia un signor Dupont o Durand qualsiasi. Se a Combray adesso non ci fosse un sindaco radicale che non saluta nemmeno il curato, avrei saputo tutto quanto. Perché quando hanno fatto le pubblicazioni avrà dovuto ben dirlo il nome vero. È una pacchia per i giornali e per il cartolaio che fa le partecipazioni farsi chiamare Marchese di Saint-Loup. Non fa male a nessuno e se può far piacere a quella brava gente non sarò io a trovarci da ridire. Cosa volete che me ne importi? Visto che non la frequenterò mai, io, la figlia d'una donna che si è fatta parlare dietro, può fare la marchesa finché vuole, con i suoi domestici. Ma negli atti dello Stato civile, non è la stessa cosa. Ah, se mio cugino Sazra fosse ancora vice sindaco gli avrei scritto. A me l'avrebbe detto sotto che nome ha fatto le pubblicazioni. D'altronde vidi abbastanza in quel periodo Gilberte, con la quale avevo riallacciato i rapporti d'una volta. Perché la nostra vita non è commisurata nella sua lunghezza alla vita delle nostre amicizie. Basta che passi un po' di tempo e si vedono ricomparire, come in politica i vecchi ministri, in teatro le commedie dimenticate che vengono riprese, rapporti d'amicizia riannodati fra le stesse persone d'una volta, dopo lunghi anni di interruzione, e riannodati con piacere. Dopo 10 anni, le ragioni per le quali uno amava troppo, l'altro non poteva sopportare un disputismo troppo esigente, quelle ragioni non esistono più. Non resta che la convenienza. E tutto ciò che Gilberte mi avrebbe un tempo rifiutato, adesso me lo accordava con facilità. Probabilmente perché io non lo desideravo più. Senza che ci fossimo mai detti la ragione del cambiamento, era sempre pronta, cosa che prima le sarebbe parsa intollerabile, impossibile, a venire da me. Mai ansiosa di lasciarmi. Il fatto è che era scomparso l'ostacolo, il mio amore. Andai d'altronde più tardi a passare qualche giorno a Tansonville. Lo spostamento non mi era molto gradito perché a Parigi, nel piedaterra che le avevo affittato perché ci dormisse, avevo una fanciulla. Come altri della Roma delle foreste o del mormorio d'un lago, avevo bisogno del suo sonno accanto a me e di giorno di averla sempre al mio fianco nella mia vettura. Un amore, infatti, per quanto lo si oblii, può sempre determinare la forma dell'amore che lo seguirà. Già in seno all'amore precedente esistevano abitudini quotidiane di cui nemmeno noi ricordavamo l'origine. È stata un'angoscia d'un primo giorno a farci desiderare appassionatamente, poi a farci adottare in modo fisso, come certi costumi di cui si è perduto il senso, quei ritorni in vettura fin proprio alla casa dell'amata, oppure il suo risiedere in casa nostra, la presenza nostra o di qualcuno di cui ci fidiamo ogni volta che lei esce, tutte quelle abitudini, sorta di grandi binari uniformi sui quali scorre ogni giorno il nostro amore, e che furono fusi un tempo nel fuoco vulcanico di un'emozione ardente. Ma tali abitudini sopravvivono alla donna e persino al suo ricordo. Diventano la forma, se non di tutti i nostri amori, almeno di alcuni dei nostri amori, che s'alternano fra loro. E così la mia casa aveva reclamato il ricordo di Albertina dimenticata la presenza della mia amante attuale, che nascondevo ai visitatori e riempiva la mia vita come un tempo Albertin. E per andare a Pansonville dovetti ottenere da lei che si lasciasse sorvegliare per qualche giorno da un mio amico, cui non piacevano le donne. Andai perché avevo saputo che Gilberte era infelice, tradita da Robert, ma non nel modo che tutti credevano, che lei stessa forse credeva ancora e in ogni caso diceva. Ma l'amor proprio, il desiderio di ingannare gli altri, di ingannare se stessa, la conoscenza comunque imperfetta dei tradimenti che è tipica di tutti i traditi, tanto più che Robert, davvero nipote di Charlie, ostentava relazioni con donne che comprometteva, che la gente credeva e la stessa Gilbert, tutto sommato, credeva alle sue amanti. In società si pensava anzi che fosse troppo disinvolto, per esempio, stando sempre attaccato durante i ricevimenti a una certa donna che poi accompagnava a casa, lasciando che Madame de Saint-Loup s'arrangiasse a tornare per conto suo. Chi avesse detto che l'altra donna, da lui così compromessa, in realtà non era la sua amante, sarebbe passato per un ingenuo, cieco, di fronte all'evidenza. Ma io, purtroppo, ero stato orientato verso la verità, verità che mi diede una pena infinita, da qualche parola sfuggita a Jupion. Quale non era stata la mia stupefazione quando, alcuni mesi prima della mia partenza per Tansonville, essendo andato a prendere notizie del signor di Charlieu, nel quale s'erano manifestati, non senza provocare grosse inquietudini, certi disturbi cardiaci, e parlando con Jupion, che avevo trovato solo d'una corrispondenza amorosa indirizzata a Robert e firmata a Bobette, che era stata scoperta da Madame de Saint-Loup, avevo saputo dal vecchio factotum del barone come la persona che si firmava Bobette non fosse altri che il violinista giornalista di cui abbiamo parlato e che tanta parte aveva avuto nella vita del signor di Charlieu. Jupion non ne parlava senza indignazione. Il ragazzo poteva agire come gli pareva, era libero, ma se c'era una parte da cui non doveva guardare era la parte del nipote del barone. Tanto più che il barone al nipote gli voleva bene come un figlio, ha cercato di mettere zizzana in famiglia, è vergognoso. E deve aver usato delle astuzie diaboliche perché nessuno era più lontano da queste cose del marchese di Saint-Loup. Non ne ha fatte davvero poche di follie per le sue amanti. Che abbia lasciato il barone come l'ha lasciato quel miserabile musicista, in modo sporco si può ben dirlo, questo era affar suo. Ma mettersi con il nipote, no, certe cose non si fanno. Jupion era sincero nella sua indignazione. Nelle persone cosiddette immorali, le indignazioni morali non sono meno forti che nelle altre e cambiano solo leggermente d'oggetto. Inoltre, le persone il cui cuore non è direttamente in causa e che giudicano sempre le relazioni da evitare, i cattivi matrimoni, come se si fosse liberi di scegliere chi si ama, non tengono conto del miraggio delizioso proiettato dall'amore. Miraggio che avvolge in modo così completo e così unico la persona di cui si è innamorati che la sciocchezza commessa da un uomo sposando una cuoca o l'amante del suo migliore amico è in generale il solo atto poetico che egli compia nel corso della sua esistenza. Capii che Robert e sua moglie, senza che Gilberte si rendesse ancora ben conto di cosa si trattava, erano stati sul punto di separarsi e che era stata Madame de Marsan, madre amorosa, ambiziosa e filosofa, a combinare, a imporre la riconciliazione. La madre di Robert apparteneva a quegli ambienti in cui la miscela dei sangui che tornano continuamente a incrociarsi fra loro e l'assottigliarsi dei patrimoni fanno rifiorire senza posa nel campo delle passioni, come in quello degli interessi, i vizi e i compromessi ereditari. Con la stessa energia aveva protetto un tempo Madame Swann, il matrimonio della figlia di Jupien, e costruito quello del proprio figlio con Gilberte, usufruendo così per se stessa, con una rassegnazione dolorosa, della stessa saggezza atavica di cui faceva beneficiare l'intero Faubourg. E forse, a un certo punto, aveva abborracciato il matrimonio di Robert con Gilberte, per il quale aveva faticato sicuramente meno e versato meno lacrime che per fargli lasciare Rachel, solo per paura che cominciasse con un'altra cocotte, o forse con la stessa, perché Robert ci mise parecchio a dimenticare Rachel, una nuova relazione che forse sarebbe stata la sua salvezza. Adesso capivo cosa avesse voluto dirmi Robert in casa della principessa di Guermont. «È un peccato che la tua amichetta di Balbec non abbia il patrimonio preteso da mia madre. Credo che avremmo potuto andare benissimo d'accordo, noi due». Aveva voluto dire che lei era di Gomorra, come lui di Sodoma. O forse, se non lo era ancora, che gli piacevano ormai solo le donne che poteva amare in un certo modo e con altre donne. E così, se io non avessi perduto, salvo qualche raro ritorno all'antico, qualsiasi curiosità sul conto della mia amica, avrei potuto interrogare in proposito non soltanto Gilberte, ma anche suo marito. Insomma, era stato lo stesso fatto ad ispirare a me e a Robert il desiderio di sposare Albertine, ossia che le piacevano le donne, ma le cause del nostro desiderio erano opposte, non diversamente dai suoi scopi. Io era per la disperazione che m'aveva dato scoprirlo, Robert per la soddisfazione. Io per impedirle, grazie a una sorveglianza perpetua, di abbandonarsi alla sua inclinazione, Robert per coltivarla e per la libertà che le avrebbe concessa di portargli delle amiche. Se Jupien faceva risalire a pochissimo tempo prima il nuovo orientamento, così divergente dall'originario, preso dai gusti carnali di Robert, da una conversazione che ebbi con Aimé e che mi rese molto infelice, dedussi che l'ex maître di Balbec faceva risalire tale divergenza, tale inversione, a tempi assai più remoti.